È così che ho riscoperto di avere una famiglia, e in particolare di avere un maschietto che ha bisogno di attenzioni ed essere coccolato come purtroppo non ho mai fatto. Ed è così che abbiamo iniziato a passare le serate io e lui, da soli. Papà, cosa guardiamo questa sera? Sì, perché l'appuntamento è alle 21.15 nel lettone, io e Joe, da soli, per guardarci un bel film. Lui va e si prepara per venire a letto. Hai lavato i denti? Chiedo io. È l'ultima domanda che posso fare, poi silenzio. Joe si infila sotto, si avvicina, si struscia, mi alza il braccio, infila la testa, cerca di sistemarsi. Papà, mettiti in posizione. Inizia il nostro film. Io lo guardo, lo coccolo. Forse ero io quello che aveva bisogno di coccole di attenzione. E il tempo libero poi, il tempo libero regalato da questa sospensione della vita, per chi se lo può permettere, per chi magari vive vicino alla campagna, qualche passeggiata in campagna oppure in giro in bicicletta. E in questo tempo libero, in uno spazio che magari non si era frequentato, a un certo punto si possono fare anche degli incontri che probabilmente nella vita normale non avremmo fatti. Sono le 15 esatte quando varco il portone dell'edificio di fine 800. È in questo luogo che ho trasferito la mia residenza da circa 8 mesi. Sono giorni di pesanti restrizioni dovute all'allarme coronavirus e, come sta accadendo a molti, anch'io ho dovuto cambiare la mia quotidianità per diversi aspetti. Il mio spirito di libertà, però, da sempre in ebollizione, non lo si può certo soffocare, come quando si mette un coperchio su una pentola fumante. Ed eccomi così con il naso fuori, all'aria aperta. Il senso di responsabilità però è forte, e allora, munito di autocertificazione, sono in partenza per un nuovo viaggio con la mia mountain bike. Scelgo di dirigermi subito a destra, pochissimi passi e sono già sulla sponda del canale Navile. Da qui comincia un sentiero misto di erba incolta e tracce di pneumatici agricoli che per tutta la lunghezza dell'argine penetra nella vasta campagna padana, ancora piuttosto nuda in questo periodo pre-primaverile. Non conosco bene questa parte di pianura, ho solo un vago ricordo legato ad una breve passeggiata avvenuta qualche anno addietro. Vivevo allora in città, a Modena per esattezza, venivo qui in provincia di Bologna con la mia ragazza nei fine settimana. Ed eccomi qua, sono arrivato nello stesso punto di allora. Alla mia sinistra la struttura del centro visite La Rizza, ex risaia di Bentivoglio. Questa volta vado oltre, voglio scoprire che cosa c'è al di là della sbarra aperta che invita ad entrare. Proseguo e poco dopo, guardando di nuovo alla mia sinistra, vedo qualcosa che mi fa afferrare con forza le leve dei freni. In primo piano, legati ad un filo sotto una tettoia posticcia, dondolano, mossi dalla leggera brezza, una serie di acchiappasogni. Mentre continuo la mia ispezione, vedo sbucare dal retro di uno dei casotti un signore a dir poco singolare. Lunghi e folti capelli bianchi, candidi come la neve, spuntano sotto un cappellino verde militare. Veste un gilet e una giacchetta leggera, e sotto una camicia variopinta. La parte bassa dei pantaloni raccolta nelle calze di spugna bianche, con le righe colorate. Ai piedi delle vecchie Timberland, non ne vedevo da tempo. Sta sgranocchiando qualcosa, non si è accorto di me. «Buongiorno!» dico quasi urlando. «Anche lei è appassionato di nativi americani, vedo!» L'uomo si avvicina, rispondendo con un cenno al mio saluto e con un sì. Poi si mette a suo agio a sedere su una seggiola e comincia la nostra chiacchierata. Il signore alleva colombi viaggiatori e li prepara per le gare. Io lo incalzo con le mie domande, mi risponde pacato e felice di condividere la sua passione. Quando mi dice che questi colombi arrivano a percorrere anche 750 km al giorno, mi sfugge un «merda». «Vengono lanciati la mattina presto», mi dice, «e fanno rientro a casa all'imbrunire». Io lo trovo sbalorditivo. Io che da sempre immaginavo passassero il tempo semplicemente a mangiare o a defecare dappertutto e che per questo, devo confessare, li avevo sempre guardati con sospetto. Tutto a un tratto dirigo il mio sguardo verso l'alto, uno strano suono interrompe la nostra conversazione. Proprio sopra le nostre teste c'è un enorme nido fra i rami degli alberi ancora spogli. Sorride il vecchio e mi dice che si tratta del caratteristico richiamo emesso dalle cicogne. Fanno battere fra loro le due parti che formano il lungo becco, roteando la testa e il collo all'indietro. Nel frattempo alcuni colombi, con un passaggio radente, rientrano da un volo. Immagino sia stato un volo di perlustrazione, proprio come capita ai piloti. Colgo, nello sguardo del vecchio, che segue attento al loro spostamento, un velo di tristezza. Lo interrogo e così mi confessa di essere angosciato. Io penso al peggio, teme forse di essere stato contagiato dal virus. No, mi dice lui, è semplicemente preoccupato del fatto che la situazione contingente farà slittare o addirittura annullare le prossime competizioni dei suoi colombi viaggiatori. Tutta una stagione di preparazione e allenamento buttata al vento. Pazienza, mi dice ancora, e con una smorfia che sembra accennare ad un sorriso, aggiunge speranzoso: auguriamoci che questo brutto periodo passi presto. Mandateci anche voi il vostro diario da questa quarantena a linee d'ombra@radio24.it. Basta una pagina per raccontare come la state vivendo. Viva!